In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: Dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo. I miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari, altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe. Fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Ecco, vi confesso, come vi avevo detto anche già l'altra volta, circa la parabola delle 10 vergini, che anche questa parabola, appena la leggo, diciamo, non mi sento tanto attratta da questa parabola, perché appunto si parla di uccisione, si parla di insulti, si parla di rifiuti e insomma non è una parabola molto attraente. Però, come ho detto anche l'altra volta, la parabola è diversa dalla analogia, cioè nella parabola non dobbiamo stare attenti a tutti i passaggi come se avessero ogni espressione un significato per il discorso che Gesù vuole portare avanti, ma la parabola ha un insegnamento preciso che vuole dare e il resto è tutto diciamo contorno, non dobbiamo prenderlo alla lettera. Il senso di questa parabola qual è? Il senso della parabola è che siamo tutti chiamati all'unione con Dio, a questo matrimonio con Dio, queste nozze con il Signore, e tutta la vita è una preparazione per partecipare a questo invito, a queste nozze. E che cosa succede? Che spesso siamo molto distratti, ognuno è preso dai propri affari e ci dimentichiamo la cosa più importante della vita, che appunto è partecipare a queste nozze dove ci stanno vivande gustosissime, dove veramente troviamo la nostra vera felicità. Ma il problema è che non lo capiamo. Allora il Signore, attraverso questa parabola ci fa capire quanto veramente non apprezziamo l'invito del Signore e ci vuole dire anche che una volta che partecipiamo a questo banchetto dobbiamo parteciparci bene, cioè vestiti bene, con l'abito nuziale. E non è un caso che qui si parli di abito nuziale. Infatti noi sappiamo che per entrare in cielo è importante che sì, ci facciamo salvare dal Signore, ma che rispondiamo anche con le cosiddette virtù. Che cosa sono le virtù? Sono proprio abitudini, abitudini buone. Quindi oggi, l'invito di oggi è cercare di magari applicarci ad una virtù particolare, può essere la mitezza, può essere la gentilezza, può essere la generosità. E che cos'è una virtù? Una virtù non è semplicemente un singolo atto buono, ma una ripetizione di atti buoni, tanto che poi fare il bene mi risulta facile e lo faccio con facilità, prontezza e gioia. Ecco che cos'è la virtù, non solo fare il bene, ma farlo ripetutamente in modo tale che io lo faccia con facilità, prontezza e gioia. Ecco, esercitiamoci oggi, scegliamo una virtù in particolare e quello è il nostro abito nuziale. Buona giornata.